Nel 1949 il capitano delle forze aeree americane Edward Murphy venne incaricato di studiare gli effetti della decelerazione improvvisa di un veicolo sugli esseri umani trasportati. Allo scopo Murphy ideò un sistema di monitoraggio tramite elettrodi fissati su una speciale imbracatura che avrebbe dovuto essere indossata dai soggetti sottoposti all'esperimento, che consisteva nel legare questi disgraziati ad una slitta con motore a razzo la cui corsa veniva arrestata di colpo. Il marchigegno a quanto pare funzionò benissimo, ma con grande sorpresa dei tecnici dall'imbracatura speciale non giunse alcun dato. Verificata la situazione dovettero rendersi conto che i dati non arrivavano a causa del banalissimo fatto che tutti gli elettrodi erano stati collegati in modo sbagliato. Chiunque ne avrebbe tratto la convinzione che qualcuno degli addetti ai lavori era stato sbadato o era un incapace. Non il capitano Murphy, che in vena di filosofia buon mercato ed in caccia di solide giustificazioni presso i superiori, da ciò formulò addirittura una legge di natura e di cultura, una legge che dice, più o meno, dice: se ci sono due o più modi per fare qualcosa e uno di questi può condurre a una catastrofe, allora qualcuno sceglierà sicuramente quello. Miscelata con robuste dosi di teoria della probabilità, passerà alla storia come la legge di Murphy e ancora nel 1997 si meriterà un ampio articolo di aspetto scientifico sulle scienze. Constato che la coda bancaria ha raggiunto in questi nostri giorni un nuovo stadio del proprio percorso evolutivo. Fino a qualche tempo fa, in banca ad ogni sportello aperto corrispondeva una coda. Tanti sportelli, tante code, come peraltro negli uffici postali. Oggi no. Coda unica, lontana dagli sportelli, e il primo sportello libero tocca al primo della fila. L'innovazione può far parte di una strategia che miri al condizionamento psicologico del cliente, si evita di uscire con la frustrazione addosso causata dal fatto che quello della fila a fianco, arrivato dopo di lui, se ne è uscito per primo. È vero che la fila di cui si viene a partecipare è più lunga, ma la sua dissoluzione sarà comunque più rapida rispetto alle attese se lo sportello aperto di riferimento fosse uno solo. Ora, a prescindere dal tempo trascorso, come è noto si avvale del suo statuto fondamentale di costruzione mentale, no? Beh, da tutti i punti di vista, dunque, il cliente esce dalla banca con la garanzia di non essere perseguitato da una cattiva stella e di essere trattato con equanimità dalla banca medesima. La mia banca tuttavia non è ancora giunta a questo stadio evolutivo, e qui sta il punto dolente. Se qualcuno cercasse un esempio di forme evolutive in cui magari per un brevissimo lasso di tempo il nuovo convive ancora con il vecchio, può trascorrere proficuamente una mattinata ad analizzare la formazione delle code nella mia banca. Si dà il caso infatti che, in assenza di istruzioni esplicite, il modello vigente di coda sia quello di una coda per ogni sportello, come anche quello di coda unica in attesa di sportello libero, a seconda dei processi di acculturazione che caratterizzano i clienti. Facciamo il caso che gli sportelli aperti siano due e che entrambi siano occupati. Se entra il cliente ad uso alla tradizionale forma di coda, fa la sua analisi della situazione e, a seconda del suo impianto ideologico, diciamo così, sceglie la coda. Se invece entra il cliente già acculturato alle nuove forme di coda, si piazza in mezzo a metà strada fra uno sportello e l'altro, ingenerando comportamenti analoghi in tutti i clienti che eventualmente seguiranno. È presumibile che questa sorta di limbo per mortali duri poco. È più che presumibile è auspicabile. Entro in banca e mi rendo conto che, venendo meno certe pratiche istituzionali come la fila per due a scuola, il servizio militare obbligatorio, no? La nostra disponibilità euclidea diminuisce. Il primo non si è messo proprio in mezzo, il secondo non gli sta proprio dietro, perfettamente dietro, il terzo è ancora più spostato, il quarto cerca di riconferire linearità ad un accrocchio ormai informale. A volte rimango in dubbio. Qui, ora, vige un tipo di coda o l'altro? Nel dubbio ho provato a parlarne. Ho provato ad aprire il mio cuore perplesso, inquieto, a chi mi stava un po' davanti e un po' di fianco. Ho cercato il dibattito criteriologico, ma ho raccolto soltanto indifferenza o moti di esplicito fastidio, fin sospetti di voler scavalcare qualcuno. Perché tutti sono perfettamente disposti a lamentarsi della coda che si fa, ma non a discuterne la natura. Come se non ci competesse, come se quella soluzione non dipendesse dall'astuzia di qualcuno che ci vuole supini e soddisfatti, ma derivasse direttamente da un principio di autorità che inesorabilmente ci trascende. Comprai quel numero delle Scienze in cui c'era l'articolo sulla legge di Murphy l'11 giugno del 1997. Stavo andando alla stazione centrale di Milano per l'acquistare dei biglietti ferroviari e mi trovai al cospetto di innumerevoli file della Madonna. Ne scelgo una e sfoglio la rivista fino a quando non mi imbatto nell'articolo sulla legge di Murphy, che per la sua intrinseca sciocchezza mi attrae immediatamente. L'articolo spiega che se ci scappa di mano una fetta di pane imburrato, questa cadrà a terra dalla parte del burro, che se cerchiamo nel cassetto dei calzini, col cavolo che ne peschiamo due uguali, o che se è previsto che piova e noi usciamo con l'ombrello, è probabile che non piova. Diciamo che s'arrangia l'articolo fra mistica e matematica a risolvere alcuni nostri complessi di colpa. E ovviamente l'articolo si occupa di code. Dice testualmente che, secondo la legge di Murphy, la coda vicino alla vostra si esaurirà per prima. E in altre parole, sta parlando di me. Di me in quel momento, alla stazione centrale di Milano, in coda chissà da quando, maledizione, che probabilmente ho scelto la fila sbagliata. Do un'occhiata alla fila a fianco e decido che ci sono le condizioni per applicare seduta stante quanto appena appreso. Lascio la mia fila, passo a quella di fianco. Ma ovviamente avevo capito male. La legge di Murphy funziona sempre, ovvero funziona per l'intera durata del fenomeno in corso. Ero prima nella coda giusta, ho cambiato, sono andato nella coda sbagliata, dove il mio turno è arrivato molto molto dopo rispetto al turno che è toccato a chi di là ha preso il mio posto. Thank you.